Bologna e dintorni. Come va il mondo? Ciao Alessandro, allora io devo fare una premessa innanzitutto sulla situazione, come si è creata e come l'ho vissuta io. Moltissima gente l'ha saputo a cose fatte, amici di amici che sono andati a bere, hanno lasciato diciamo il telefono, l'hanno controllato e sono andati bene fino a tardi e all'una hanno visto il telefono e ho detto cacchio, c'è la legge marziale, cosa dobbiamo fare? Come ti dicevo, il giorno dopo era un misto fra stupore, incredulità e buttarla a ridere perché nessuno aveva nessuno ancora ha capito perché. E c'è questa contrapposizione, però queste due visioni diverse della cosa l'ho vista proprio fra chi ha una certa età, sopra i 50 anni per dirci, e chi ha meno di 50 anni. Proprio per chi l'ha vissuto il periodo di dittatura fino all'87 è stata incredulità e un outcome, diciamo, negativo, proprio spaventato. L'ha presa male, scioccato, negativo. Invece chi ha sotto i 40 anni, che hanno detto, cioè che si rimane sì scioccati, ma non preoccupati, l'ha buttata a ridere, del tipo era ubriaco, overdose da Viagra. Quando ho detto legge marziale io ho pensato a, ok, è scoppiata la guerra, la Corea del Nord ha invaso e non lo so, cioè una cosa del genere, io pensavo subito a quello. È stata una situazione surreale, surreale, letteralmente surreale. Avendo studiato la storia coreana anche nel dettaglio, aver visto una cosa del genere è stata veramente traumatica e non volevo crederci. Io vivo a Gwangju, che come ben saprai, Gwangju è una città che non vota conservatore e Gwangju è una città che sa cosa vuol dire essere sotto legge marziale. Sabato 7 dicembre, puntata numero 11 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e questa era la testimonianza di Gabriele, giovane italiano che vive in Corea del Sud da oltre 12 anni e che ci racconta queste ore da Gwangju, sesta città del paese, luogo storico delle manifestazioni antiregime che hanno puntellato, che si sono registrate nel corso della storia del regime autoritario sudcoreano in vigore fino alla fine degli anni 80 e che proprio a Gwangju hanno vissuto uno dei momenti più tragici della propria storia con la repressione del sangue di decine di manifestanti, di giovani manifestanti proprio in nome della legge marziale in vigore in quegli anni. La notizia della settimana è quella della proclamazione della legge marziale da parte del presidente sudcoreano Yoon, legge che non è stata poi applicata di fatto e che non è stata neanche approvata dal Parlamento, ma resta un lungo strascico politico legato a questo evento che di fatto segna la fine della storia della carriera politica di Yoon, del conservatore Yoon, e che lascia qualche dubbio rispetto alle reali motivazioni che l'hanno determinata e che forse ancora più significativamente interrogano le coscienze in un paese che della legge marziale conosce bene gli effetti proprio per la storia autoritaria che l'ha riguardata fino alla fine degli anni Ottanta. Questo è l'argomento di oggi e prima di approfondirlo ci prenderemo qualche minuto di pausa. A tra poco. Thank you. Seul Giambinai con Sun Tears Red, bentornate e bentornati. Oggi, nella settimana che ha visto la Corea del Sud tornare sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, possiamo dire, siamo in collegamento con Marco Milani, ricercatore di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna, per cercare di fare il quadro e un po' una sintesi di quanto accaduto in Corea del Sud questa settimana. Buongiorno Marco. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi oggi, seppure in collegamento. Comincerei immediatamente con una domanda sull'evento della scorsa settimana. Di cosa si tratta, Marco? Una scommessa politica mal calcolata? L'atto disperato di un leader in declino o che cos'altro? Com'è possibile, dal tuo punto di vista, leggere la mossa del presidente Yoon? Secondo luogo, è verosimile ritenere che l'imposizione della legge marziale sia soltanto opera sua? Allora, la mossa del presidente Yoon può essere letta un po' con le parole che hai usato tu poco fa, quindi sia come una scommessa politica mal calcolata, sia come l'atto disperato di un leader politico, atto scellerato più che disperato, di un leader politico che si trovava in una situazione estremamente difficile. Infatti già da molti mesi la situazione politica del presidente Yoon era di grande difficoltà, la sua popolarità all'interno del paese era decisamente in declino, con dei tassi di popolarità che si aggiravano attorno al 20%. Allo stesso tempo si doveva confrontare con un'assemblea nazionale, quindi con un Parlamento che aveva una forte maggioranza progressista, quindi del partito dell'opposizione, e anche all'interno dello stesso partito conservatore, quello a cui fa capo Yoon, c'era un forte malcontento nei confronti dell'azione del presidente. Date tutte queste premesse, è chiaro che la decisione di Yoon sia stata appunto un'azione estrema, molto radicale, sociale per cercare di consolidare in qualche modo, e quello che forse lui ha visto come l'unico modo possibile a questo punto, per quindi consolidare la propria posizione politica all'interno del paese e al governo del paese soprattutto. Non dimentichiamo anche il fatto che lo stesso Yoon, ma soprattutto alcune persone a lui molto vicine, e in primis la First Lady, quindi la moglie Kim Kon-hee, erano sottoposte a una notevole pressione da parte dell'opposizione politica, quindi del Partito Democratico, perché appunto il partito a più riprese ha chiesto l'istituzione di una commissione investigativa su alcune azioni portate avanti dalla First Lady negli ultimi anni che hanno a che fare con possibili reati di corruzione, possibili influenze indebite da parte della First Lady nella scelta, nella nomina di alcune figure molto importanti all'interno del governo. Il Partito Democratico da questo punto di vista era riuscito ad approvare in Parlamento per ben 3 volte una legge che istituisse una commissione investigativa speciale sulla First Lady e per ben 3 volte il Presidente aveva posto il veto. E quindi diciamo che il Presidente Yoon si trovava a dover confrontarsi con una situazione di consenso popolare molto basso, di opposizione politica molto forte, di malcontento e difficoltà di gestione all'interno del suo stesso partito e anche appunto una serie di possibili scandali, anche dal punto di vista personale, che lo poneva in una posizione di ancor più difficoltà. E quindi direi che tutte queste sono state un po' le motivazioni che probabilmente, ma ancora non lo sappiamo per certo, l'hanno spinto a prendere una decisione così radicale. Detto questo, l'imposizione della legge marziale risulta essere, almeno da quanto ne sappiamo oggi, una decisione individuale del presidente o comunque condivisa con una cerchia strettissima di suoi collaboratori. Sicuramente, per sua stessa missione, il ministro della difesa è stato coinvolto in questa decisione, tanto è vero che ha rassegnato le dimissioni il giorno dopo, appunto, questo tentativo maldestro di colpo di Stato, se vogliamo chiamarlo così. Il giorno successivo, l'ormai ex ministro della difesa ha rassegnato le dimissioni, quindi lui sicuramente era coinvolto all'interno di questa decisione, dal momento che appunto lo ha dichiarato lui stesso quando ha rassegnato le dimissioni, e probabilmente qualche altro molto stretto collaboratore del presidente ne era a conoscenza. Però non è stata una decisione condivisa, sicuramente non è stata una decisione condivisa con il suo partito politico, che infatti ha preso immediatamente le distanze da questa decisione nei minuti successivi al discorso televisivo del presidente Yoon. A quanto ne sappiamo dalle dichiarazioni che sono state rese alle commissioni parlamentari in questi giorni, a quanto pare neanche l'esercito era stato informato in anticipo, ma lo stesso generale Pak Kang-soo, che era stato nominato poi da Yoon comandante della legge marziale, ha dichiarato di non essere stato informato con anticipo, ma di averlo saputo pochissimo prima dell'annuncio ufficiale, quando gli è stato chiesto di firmare anche a lui il decreto della legge marziale, e a quanto pare anche molte, diciamo, persone all'interno dei servizi segreti non erano state coinvolte in questa decisione, ma lo hanno saputo all'ultimo momento. Quindi diciamo che non è stata una decisione individuale, ma è stata comunque una decisione condivisa dal presidente soltanto con alcune persone all'interno della sua cerchia più ristretta. Questo è quello che sappiamo fino a oggi, e poi ovviamente nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, probabilmente se ne saprà di più. Sì, alcuni dei, diciamo, punti degli sviluppi politici che si sono realizzati e di cui adesso vedremo un po' gli esiti, li hai menzionati tu. Il partito del presidente Yoon, diciamo, non ha mai chiaramente supportato la scelta dell'imposizione della legge marziale, però piano piano abbiamo assistito a una vera e propria presa di distanza del partito dal presidente Yoon. Io a questo punto ti chiederei, sulla base delle evidenze che ci sono fino a questo momento, che cosa potrebbe succedere nel breve termine per quanto riguarda la vita politica della Corea del Sud, quali scenari potrebbero aprirsi nel futuro prossimo venturo. Allora, io credo che il ruolo e l'azione del Partito Conservatore, che è il partito del presidente Yoon, sia stato fondamentale da questo punto di vista, perché appunto si sono immediatamente schierati contro la legge marziale e alcuni di loro, non molti per la verità, ma alcuni di loro si sono immediatamente recati all'Assemblea Nazionale, al Parlamento, per votare contro la legge marziale, e in effetti fra i 190 parlamentari che hanno votato contro ci sono stati alcuni parlamentari della maggioranza, quindi del Partito Conservatore. E anche da dire che gli esponenti principali del partito, ad esempio appunto il leader del partito, Han Dong-soo, ma anche il sindaco di Seul, che è una figura molto importante, si sono immediatamente e pubblicamente espressi contro l'imposizione della legge marziale. Credo che l'unico che sia stato, diciamo, più favorevole a questa scellerata decisione sia stato il sindaco di Busan, ma a parte lui, tutti gli altri sono immediatamente opposti a questa decisione. Quindi è stato un atteggiamento da questo punto di vista molto responsabile. Quando poi il presidente ha ritirato la legge marziale, dopo 5 ore dopo averla imposta, si è aperta poi tutta l'altra partita del dopo. Da questo punto di vista, l'atteggiamento del Partito Conservatore è un po' cambiato, perché all'inizio lo stesso leader aveva dichiarato che il partito non avrebbe appoggiato la procedura di impeachment, non avrebbe votato a favore della procedura di impeachment. Questo non per salvaguardare il presidente, ma perché, a detta appunto del leader del partito, avrebbe aperto a nuova instabilità e a una possibile situazione di caos all'interno del paese. Poi in realtà, dopo aver incontrato il presidente alcune volte, il leader del partito si è espresso chiaramente a favore di una rimozione rapida del presidente Yoon dal suo incarico. E si aprono degli scenari importanti per la Corea del Sud che vanno nella direzione di un cambiamento al vertice. Quindi, una volta che è stato messo in stato di accusa il presidente, perde le sue funzioni sostanzialmente, viene sostituito pro tempore dal primo ministro, che diventa presidente facente funzione. Sostanzialmente, entro 180 giorni la Corte Costituzionale si deve esprimere sulla legittimità o meno dell'impeachment. Se l'impeachment viene confermato alla Corte Costituzionale, ci sono 60 giorni per eleggere un nuovo presidente. Questo è un po' il percorso che si prefigura allo stato attuale. Detto questo, io credo che appunto la Corte Costituzionale, data la gravità dei reati che vengono contestati al presidente, si esprimerà in maniera positiva per l'impeachment, quindi negativa per il presidente che verrà ufficialmente rimosso, e ciò quindi apre a uno scenario di nuove elezioni. Nuove elezioni che, considerando queste tempistiche, potrebbero svolgersi nella primavera del 2025. È chiaro che in una situazione di questo genere il Partito Conservatore cercherà in qualche modo di elaborare una strategia politica per distanziarsi il più possibile da Yoon e da questa scelta, da questa decisione, e cercare in qualche modo di ricostruirsi una credibilità. Da questo punto di vista, credo che il leader del partito stia già valutando qual è il percorso per arrivare appunto alla candidatura, e tutto fa pensare che se si dovesse andare alle elezioni sarà lui il candidato del Partito Conservatore. Io credo che sarà molto difficile per il Partito Conservatore uscire in maniera, diciamo così, non troppo danneggiata da questa situazione. Quindi, diciamo che lo scenario che risulta più probabile dal mio punto di vista, anche se è sempre difficile fare previsioni, è quello che si andrà a nuove elezioni per la primavera, e le nuove elezioni probabilmente porteranno all'elezione di un presidente progressista, quindi del Partito Democratico, che con tutta probabilità sarà l'attuale leader del partito, Lee Jae-myung, che è anche colui che era stato sconfitto, seppur con un margine molto risicato, da Yoon Suk-yeol nel marzo del 2022. Questo è uno scenario quindi di una transizione da un presidente conservatore a un presidente progressista, e ciò apre poi, ma qui siamo già più nel medio periodo più che nel breve periodo, a una serie di scelte politiche potenzialmente molto diverse, perché sappiamo bene che la divisione che c'è fra conservatori e progressisti in Corea del Sud è molto forte su molte tematiche. Il presidente Yoon, soprattutto in politica estera, che è l'ambito in cui il presidente in Corea può prendere decisioni in maniera più libera, senza magari dover passare anche attraverso l'Assemblea nazionale, il presidente Yoon ha fatto delle scelte di politica estera molto forti, non condivise dai democratici. Quindi credo che questo potrebbe essere uno scenario in cui un eventuale cambiamento di colore politico alla guida del paese potrebbe portare a dei sostanziali cambiamenti rispetto a ciò che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Marco, al netto delle motivazioni portate dal presidente Yoon rispetto alla necessità di imporre la legge marziale, quindi preoccupazioni ufficialmente, formalmente legate all'instabilità causata dalla Corea del Nord, un dato di fatto è che negli ultimi mesi la Corea del Sud è stata territorio attraversato da diverse e anche importanti e significative mobilitazioni sociali che fondamentalmente hanno un po' sfidato frontalmente le istituzioni e il governo. è un momento piuttosto vivace per mobilitazioni in Corea del Sud, ci può aiutare a tracciare un po' lo stato dell'arte e anche a capire cosa potrebbe succedere su questo fronte, quali scenari potrebbero aprirsi anche in tema di mobilitazioni sociali, quali sono i principali fronti aperti, cosa potrebbe succedere adesso che si apre una nuova fase di transizione, quantomeno della leadership politica. Allora, partiamo dal dire che la società civile sudcoreana e tutti i vari gruppi organizzati all'interno della società sono tradizionalmente molto attivi e molto propensi alle mobilitazioni, alle manifestazioni. Quindi, diciamo, è una cultura della partecipazione politica diretta delle persone che in Corea del Sud affonda le proprie radici durante il periodo dell'autoritarismo e anche dopo la democratizzazione è rimasta sempre molto viva. Quindi è tutto normale, tra virgolette, da questo punto di vista. C'è da dire che con l'arrivo al potere di Yoon, quindi a partire dal 2022 e a causa di una serie di scelte portate avanti dal presidente, ma non solo, anche appunto per una serie di mobilitazioni, soprattutto dei lavoratori che si rivolgevano non tanto contro il governo, ma contro alcune importanti aziende. Ricordiamo per esempio i primi scioperi che ci sono avvenuti alla Samsung quest'anno, che sono i primi nella storia. Quindi, diciamo, una serie di scelte fatte dal governo hanno portato quindi a una mobilitazione di una serie di importanti settori della società che nell'ultimo anno è diventata molto forte, e anche questo è stato uno dei fattori che ha messo sotto pressione sicuramente il presidente Yoon prima della decisione di martedì scorso. E la protesta più importante che quest'anno ha veramente creato una fortissima tensione all'interno del paese è quella dei medici, soprattutto i medici specializzandi, i medici giovani che appunto dagli studi universitari arrivano agli ospedali o comunque al lavoro, si sono mobilitati già a febbraio del 2024 con uno sciopero massiccio per protestare contro la riforma dell'accesso all'universitario, appunto alla facoltà di medicina, che questo governo aveva deciso di ampliare in maniera significativa. E appunto i medici hanno iniziato a protestare contro questa decisione e contro una serie di altre decisioni che aveva preso il governo e che appunto andavano contro gli interessi, secondo i medici, dei medici stessi, ma in generale della popolazione coreana per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. E quindi da febbraio diverse migliaia di medici stanno scioperando, creando una serie di problematiche ovviamente all'interno del paese, ma secondo loro in maniera legittima, appunto per difendere quelli che secondo loro sono delle istanze molto importanti. Insieme ai medici hanno scioperato quest'anno anche altre importantissime categorie, come per esempio i lavoratori dei trasporti, quindi ferroviari, ma anche il trasporto pubblico nelle città. Abbiamo citato i lavoratori della Samsung, quindi tutta una serie di proteste e mobilitazioni molto rilevanti, soprattutto dirette contro il governo. Negli ultimi giorni abbiamo sicuramente visto anche una serie di importantissime mobilitazioni contro il presidente e contro la sua scelta di provare ad imporre la legge marziale. Ricordiamo che già la sera stessa dell'imposizione della legge marziale, migliaia di persone si erano riversate nelle strade di Seul per protestare contro questa decisione e molte saggiamente avevano deciso di dirigersi verso il Parlamento, verso l'Assemblea nazionale, per in qualche modo cercare di proteggere i parlamentari che dovevano lì recarsi per votare contro la legge marziale. Ma prima ancora di questa giornata molto importante, nelle settimane precedenti c'erano state manifestazioni molto partecipate contro il presidente. Quindi una mobilitazione che nell'ultimo anno è diventata davvero molto ampia, se non a 360 gradi quasi, quindi per specifiche istanze, diciamo più di carattere economico legate alle condizioni dei lavoratori, ma anche dirette proprio contro il presidente e contro le riforme che cercava di portare avanti. Detto questo, io credo che le proteste che oggi vediamo siano soprattutto quelle finalizzate all'uscita di scena definitiva del presidente, che quindi potrebbero iniziare a smobilitare una volta che il presidente viene rimosso dal suo incarico. Sicuramente continueranno delle proteste perché c'è la richiesta forte da parte della cittadinanza non solo di rimuovere il presidente, ma di metterlo sotto stato di accusa e quindi di iniziare una vera e propria investigazione sulle sue azioni che può portare anche ad un'incriminazione. E quindi credo che nelle prossime settimane, da qui alla fine dell'anno, le mobilitazioni saranno rivolte soprattutto verso il presidente e verso questa azione che è stata compiuta dal presidente stesso. Successivamente staremo a vedere cosa succederà nel paese, perché sicuramente immagino che le mobilitazioni continueranno sempre contro il partito conservatore, o comunque in generale contro l'establishment che ha permesso la dichiarazione della legge marziale, nelle settimane successive, se ci saranno nuove elezioni, bisognerà vedere come andranno le nuove elezioni e come appunto la società civile deciderà di porsi verso il nuovo governo che appunto entrerà in carica dopo le elezioni. Detto questo, l'ultimo appunto che mi sembra importante fare riguarda il fatto che le dimostrazioni, le manifestazioni di questi giorni si sono, diciamo così, caratterizzate, tranne appunto i momenti di tensione che ci sono stati nella notte stessa della dichiarazione della legge marziale, per fortuna senza incidenti. Le dimostrazioni di questi giorni sono dimostrazioni estremamente pacifiche a cui stanno partecipando ampi strati della popolazione coreana, dai più anziani ai più giovani, famiglie con bambini, e quindi diciamo sono manifestazioni molto partecipate, molto pacifiche e che dimostrano ancora una volta quanto la società civile coreana faccia parte di questa cultura della partecipazione ad ogni livello. Bene Marco, io ti ringrazio molto per averci accompagnato in questa ricostruzione e diciamo, per aver aperto anche un paio di riflessioni rispetto a quello che potrebbe succedere da qui a breve e anche da qui a qualche settimana. Grazie mille Marco Milani. Prima Grazie a voi. di chiudere vi ricordo che fino al 6 gennaio è possibile aderire alla campagna abbonamenti di Radio Città Fucico, una radio incontenibile. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.radiocittafucico.it/abbonamenti. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio Città Fucico. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y al azagaba va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.